Così parla il Signore. Dov'è la lettera di ripudio della vostra madre con la quale io l'ho ripudiata? O a quale dei miei creditori io vi ho venduto? Ecco, a causa delle vostre iniquità voi siete stati venduti, a causa delle vostre trasgressioni la madre vostra è stata ripudiata. Perché, quando sono venuto, non c'era nessuno? Perché, quando ho chiamato, nessuno rispose? Forse che la mia mano è troppo corta per redimere? Non ho io la forza per salvare? Ecco, con la minaccia io prosciugo il mare e rendo i fiumi un deserto. I loro pesci imputridiscono per mancanza d'acqua e muoiono di sete. Rivestirò i cieli di nero e metterò loro un sacco per manto. Il Signore Dio mi diede una lingua di discepolo perché io sappia sostenere lo stanco con la parola. Egli risveglia il mio orecchio perché io ascolti come fanno i discepoli. Il Signore Dio mi aprì l'orecchio ed io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Presentai il mio dorso ai persecutori, le mie guance a quelli che mi strappavano la barba. Non nascosi la mia faccia agli oltraggi e agli sputi. Il Signore Dio mi prestò soccorso, per cui non sono confuso. Perciò resi la mia faccia come una pietra, e so che non sarò confuso. È vicino colui che mi rende giustizia. Chi contenderà con me? Presentiamoci insieme. Chi è il mio accusatore? Si accosti a me. Ecco, il Signore Dio mi presta soccorso. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, tutti si logorano come una bestia. La tignola li divorerà. Chi tra voi teme il Signore ed ascolta la voce del suo servo? Chi cammina nelle tenebre senza alcuna luce? Confidi nel nome del Signore e si appoggi nel suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che attizzate braci ardenti, andate nelle fiamme del vostro fuoco e tra i tizzoni che avete fatto bruciare. Dalla mia mano vi è capitato ciò. Nel tormento giacerete.